24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Dovreste essere orgogliosi di questo movimento, ha tenuto un po' di democrazia in questo paese. Sto cercando di temprare animi di gente che vuol prendere fucili, sparare, bastoni. Andiamo, la rivoluzione si fa solo così. E con calma, abbiamo ancora dei metodi forse democratici, proviamo ancora con quelli. Forse ci sono ancora dei metodi democratici, dice Beppe Grillo ieri in una conferenza stampa dopo aver incontrato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. In una chiesa. Sì, non ce la contraffina, però è Milano, sei proprio un coglione. Ma è possibile che sei un pirla così lavori in radio? E il mondo va così. Vabbè, pazienza. Ormai non. Cioè, posso dire ancora una cosa? Poi dopo basta, va bene, ho capito. Appena apri bocca qui. C'è il nostro caro simpatico amico che saluto. Come si chiamerà questo simpatico ascoltatore? Chi lo sa? Boh. Vabbè, comunque avete sentito Beppe Grillo ieri, una giornata che se uno va a sintetizzarla attraverso i giornali, ragazzi, le prime 10 pagine è tornato l'impazzimento della politica, è il PDL che minaccia, e i grillini si sono tolti la giacca in Parlamento, poi hanno fatto un sit-in perché è stato bloccato il Parlamento per un giorno la seduta della Cassazione di Berlusconi, il PD si è spaccato, il PD è tornato il PD del ma anche, siamo contro ma anche acconsentiamo, i grillini appunto che dicono un disastro. Il titolo del giornale, qui crolla tutto, questo è il titolo del giornale di oggi, va bene, questo è 24 mattino, saluto Alessandro Longoni in redazione, c'è il nostro Paolo Corleoni oggi in regia, incredibilmente l'hanno messo qua, e il nostro Alpino l'abbiamo spedito a calci, non so, in montagna, che dire, apriamo il Parlamento? Sì? Benissimo, apriamo. Il caffè volentieri a tutti quanti. Tutti quanti. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Ancora l'abbiamo capito. Continui, sì. Se forse hai preso anche tu i suoi favori. No. Crossate col caffè della Minetti. Noi non lo vogliamo dalla Minetti. Brutto cretino d'un Milan. Vabbè. Allora, oggi voglio. Il clima è questo. D'altronde il clima anche nel paese pare questo qui. E allora voglio salutare Luisella Costamagna. Buongiorno, ciao, ben ritrovata. Come va? Buongiorno a voi. E tu sei tranquilla, serena? Devi anche no, tu. No, sono già indignata di primissima mattina. Ecco, Luisella Costamagna. Difficile stare caldi. Si sveglia Luisella Costamagna indignata. Se la prende col frigorifero. No, altro che frigorifero. Si arrabbia col dentifricio, no, non lo so. Vabbè, allora saluto anche il vice direttore di Panorama, Maurizio Tortorella. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Oh, il clima, devo dirlo subito, il tono di Maurizio è dimesso. Giusto? Allora, oggi sui giornali il direttore di Panorama, sul Corriere, prende carta e penna e scrive al Corriere dicendo: non sono stato condannato a 8 mesi di carcere per diffamazione, ma per omesso controllo. Maurizio, omesso controllo per un articolo che ho scritto io, che Maurizio Tortorella ha scritto diffamando un magistrato. Diffamando è da vedere. Beh sì, questa è la... Anche perché pensavo, Alessandro, a quello che dice che tu sei un coglione, a quell'altra che dice che tu sei un cretino. Quello che io mi sono limitato a scrivere dopo aver letto un libro di un magistrato, sì, e questo è quello che costui scriveva di se medesimo, è stato scrivere che costui ha un ego ipertrofico, e quindi ho espresso una critica. Un ego ipertrofico, per questo tu sei stato condannato, credo, a 800 euro, un'ammenda, 800 sì, euro da pagare. Multa, esattamente, mentre... la richiesta del pubblico ministero era stata sia per me che per il direttore Moulet di 2000 euro, nel mio caso il giudice ha deciso per un più che dimezzamento della richiesta, nel suo caso invece ha chiesto 8 mesi di reclusione senza la sospensione della condizionale. Quindi, cioè, ha chiesto, nel senso, c'è stato già il grado di giudice? No, scusami, ha dato, cioè il giudice. Condannato, insomma. 8 mesi di carcere per il direttore. La qualcosa è obiettivamente abnorme, è una follia, posso dire. Trattandosi di un reato che non è la diffamazione. No, ma questo l'ho messo controllo. Questo è il clima, poi magari approfondiamo questo. Però intanto parliamo dal clima, partiamo dal clima del paese. Luisella, perché sei indignata? Contro chi? Vabbè, contro cosa? Ma no, sulla vicenda Mulè volevo solo capire, anch'io ho letto i giornali. Sì. Se Mulè era anche contumace, non si è mai fatto interrogare. Sì, ha scritto così. Distingueva le due posizioni, no. Dopodiché vabbè, non ne parliamo. Ha scritto così, no, ha scritto così Mulè oggi sul Corriere. È vero, non mi sono presentato perché allora. nessun direttore si presenta mai ai processi in cui è imputato per omesso controllo. E quindi le attenuanti non gliel'hanno riconosciute, Tortorella. È andato solo una multa e lui 8 mesi di reclusione. Prima di tutto nessuno ha chiesto. Insomma, la giustizia abbiamo fatto il suo corso. Comunque, andiamo no, aspetta, perché forse non vi sentite. No, Maurizio stava replicando. Maurizio, cosa c'è? Poi magari chiudiamo questa vicenda. Maurizio, non esiste che il direttore vada in tribunale a difendersi dalle accuse di omesso controllo. Non è mai esistito, non c'è un caso nella storia del giornalismo e della magistratura. Quindi dice, in genere va la persona che ha scritto l'articolo, in ma questo caso tu che sei stato. Lui cosa viene interrogato? Lei ha fatto scrivere il pezzo, sì, l'ho fatto scrivere perché sono il direttore responsabile di Panorama. Poi cosa gli poteva venire? Insomma, questo dice Luisella, nessun giornale, nessun direttore si presenta. Se un normale cittadino viene convocato per essere interrogato, va a farsi interrogare. Dice, non è stato convocato. Comunque, insomma, vabbè, la questione è questa. Devo dire che effettivamente 8 mesi di carcere per omesso controllo, peraltro a Tortorella che ha scritto l'articolo si è preso 800 euro di multa e il direttore che non ha scritto l'articolo ma ha omesso il controllo 8 mesi di carcere, effettivamente c'è una cosa un pochino... cose davvero, non faccio difese di categoria, voglio andare a vedere il merito. No, no, ma chiaro. Quindi poi Mulè ha pure un'indagine per corruzione, quindi vediamo cosa decidono i magistrati. Vabbè, insomma, il clima è questo. Anche, Parlamento è il clima anche questo. Perché sei indignata? Perché? Ma no, perché quello che è successo ieri è una cosa gravissima, cioè noi siamo in una situazione economica drammatica, abbiamo la gente che si suicida, gli italiani che risparmiano anche sul pane e sulla pasta e il Parlamento che dovrebbe lavorare 24 ore su 24 per i problemi di tutti gli italiani si ferma per un giorno per i problemi giudiziari di Silvio Berlusconi. Questa cosa qua non si è mai vista nonostante siano 20 anni che siamo alle prese con i problemi e gli interessi personali di Berlusconi, non si è mai vista una cosa simile, cioè un Parlamento che si blocca per un giorno. E poi si dice, perché tu citavi Grillini, si è detto e si continua a dire che Grillini sono i responsabili, ma in questo caso gli responsabili sono tutti quelli che ieri hanno votato 24 ore di stop a lavori parlamentari quando si doveva decidere di cose importanti come l'IMU. E l'Ilva. A proposito di questo, ma infatti tu dici PD compreso, vogliamo sentire, poi voglio capire il parere anche di Tortorella su questo. Per me, quando ho sentito quest'audio dell'onorevole Rosato del Partito Democratico, che a un certo punto ha preso la parola e ha giustificato e ha spiegato perché il PD avrebbe votato sì alla richiesta di sospensione di un giorno dei lavori. Sentite Rosato, il trionfo del manchismo del PD. Noi siamo contrari, e lo abbiamo detto a chiare lettere in conferenza dei capigruppo, a qualsiasi tentativo di blocco delle istituzioni, di qualsiasi tipo e da chiunque proposto. Ma contrari. Ah no, siamo contrari. Ma con la stessa chiarezza, noi siamo per acconsentire a una richiesta che il capogruppo Brunetta ha posto in termini molto corretti e molto concreti. Ma siamo contrari, all'interno della conferenza dei colleghi, per favore. Ma no, colleghi, ha detto, ma siamo contrari. La richiesta, ma però... Colleghi, ma anche, ma no, siamo contrari ma a favore. Come è accaduto in molte altre situazioni. Ma come, ma Maurizio Tortorella, ma com'è possibile una roba del genere? Ma siamo contrari al blocco del Parlamento, ma siamo a favore della richiesta perché ce l'hanno posta in modo molto educato e gentile. Ma com'è possibile, Maurizio? Ma guarda, non mi pare che ultimamente il Parlamento, ma neanche nelle scorse legislature, trascorra tutte le giornate della sua di una legislatura impegnata in fondamentali discussioni a risolvere veramente con urgenza e con particolare attenzione i problemi di questo paese. Quindi quanto a quel che devo perdere ieri, un altro giorno. Dice Luisella, quindi possiamo stare un altro giorno. No, dico, non per scandalizzarsi mi pare eccessivo. Probabilmente non importa neanche tanto. Trovo invece giustificato, almeno in parte, lo stupore e l'indignazione per una vicenda giudiziaria che ha obiettivamente un'accelerazione sconvolgente, che per carità fosse applicata a tutti i procedimenti giudiziari di questo paese sarebbe assolutamente corretta, che sia invece un unicum applicata a Berlusconi. Però Maurizio, qua il cellulare, no, infatti, ma Maurizio, tra l'altro, il cellulare si sente, va, viene, non si. Però allora adesso vediamo la questione. Vediamo la questione anche Berlusconi. Ma prima il PD, Luisella, sai cosa avrebbe detto Renzi? Scrive così il Corriere. Pare che Renzi abbia commentato: sono giorni che facciamo figure di merda, sia il PD, sia il governo. Sono gli unici che si sono astenuti. Io trovo scandaloso, a parte quel passaggio che hai fatto giustamente sentire, che è imbarazzante. Il manchismo. Le responsabilità del PD si riconoscono tutti, siamo ancora qui che non commentiamo le sentenze, non confondiamo le vicende giudiziarie col governo, ma come? Cioè il PD non ha nessun imbarazzo a essere alleato con un uomo condannato per reati gravissimi. Questo però lo sapevano anche quando hanno fatto il governo. Innocenti. No, ma lo sapevano anche quando hanno fatto il governo, cioè scandalizzarsi, cioè scoprire adesso le vicende giudiziarie di Berlusconi sarebbe un po' ridicolo. Però nel frattempo sono state le condanne. Allora dico, nel caso in cui Berlusconi dovesse essere condannato in modo definitivo, si mantiene un'alleanza da parte del Partito Democratico? Cioè mi sembra che veramente siano avvinghiati gli uni agli altri come quelli che affogano e vanno a fondo insieme, solo che insieme ci va anche il paese, se continuano. Maurizio, abbiamo ripristinato credo la linea, ma la questione è: perché dici sì, c'è stata un'accelerazione? In realtà il primo presidente di Cassazione ha detto: ma che dobbiamo fare? Cioè se addirittura non avessimo fatto così saremmo stati anche esposti a possibili sanzioni, cioè tutti i processi, se rischiano la prescrizione, il dovere è quello di accelerare per evitare la prescrizione. Cioè la prescrizione bisogna cercare di evitarla in tutti i modi. Dovrebbe essere così, e così dice effettivamente la legge, l'articolo 169 del codice di procedura penale, ma così purtroppo non è, perché non funziona. Ci sono 169.000 procedimenti che vanno in prescrizione, 169.000, una cifra folle. Però devo dire, anche alcuni di Berlusconi in passato, quindi voglio dire, a volte ha goduto. Sono stati 6 i procedimenti di Berlusconi. 34 finiti in prescrizione. E sicuramente non è una bella cosa, non sto mica dicendo che è bello finiscono i procedimenti Berlusconi, sto dicendo una cosa diversa. Niente, Maurizio, dove vivi? In una caverna? Io non lo so, c'ho il cellulare che ci abbandona. Ma facciamo sentire allora Crimi, la protesta di Vito Crimi. I grillini a un certo punto fanno questa protesta clamorosa. Non me ne voglia, Presidente, non è un gesto, è un gesto simbolico che faccio e lo faremo come tutto il gruppo. Clamoroso, non è un gesto nei suoi confronti offensivo, però noi oggi ci togliamo la giacca e la cravatta. Si levano la giacca e la cravatta, perché in Parlamento sapete che c'è la regola. Per dimostrare la regola. Questo Parlamento. Di giacca e cravatta. A un certo punto Grasso, Pietro Grasso, dopo la protesta dice: va bene, avete fatto la protesta, adesso rimettetevi la giacca e la cravatta per la dignità. Oggi la è dignità una giornata del, particolare del Parlamento. Grasso. Allora io invito al senso di responsabilità di tutti, non per cercare di riportare il senso di responsabilità ed equilibrio nell'ambito della nostra aula. Quindi io, avete fatto la vostra manifestazione, io vi invito cortesemente a rimettervi le giacche e le cravatte come prevede il nostro regolamento. La dignità dell'aula. La dignità dell'aula. Ecco, Luisella, va bene la dignità dell'aula. La protesta della calpestata per il resto, annullando i lavori, ma la giacca e la cravatta, la forma è fondamentale in un paese che non ha sostanza. Allora, io quando ho letto la frase di Daniele Capezzone, che ha detto testuale, due punti aperte virgolette, Berlusconi dovrebbe resistere come il Mahatma Gandhi e la marcia del sale. Ecco, lì devo dire che anche la mia piccola pazienza che mi impedisce di stracciare i giornali quando li leggo è stata messa a lievissima prova, non dura, lievissima prova, non so, Maurizio Tortorella, ecco, ma il Mahatma Gandhi. Sì, il Mahatma Gandhi. La scelta Berlusconi. Ecco, ecco. No, la questione, la domanda secca che però vi voglio fare è questa. Maurizio, secondo te davvero rischia il governo a questo punto? Perché parlando di cose venendo alla sostanza. Ma al momento direi proprio di no. Mi pare che possa essere considerato un mostrare, come si dice, gli scudi, quello del PDL, ma mi pare che il governo vada avanti. Il problema è che il governo non fa un tubo, e questo è il problema. Il governo è un governo che sa slittare tutte le decisioni e non ne assume una. In autunno, c'è l'autunno. Vedremo cosa succederà se ci fosse una condanna. Io personalmente non sono così convinto. Tanto mi stupisce che la Costamagna continui a dire che un uomo condannato, sì, per carità, ma no, in primo e secondo grado. Condanne per ora definitive non ci zero, sono. Di definitiva zero. Sì. Sia paziente, aspetti, insomma. Devi aspettare il 30 luglio, Luisella, non è detto che vada, tra l'altro, come... No, ma infatti l'ho detto, ma anche al terzo grado di giudizio. Dopodiché vorrei precisare due cose anche rispetto a quanto ha detto la Cassazione. Cioè, per tutti gli imputati si deve evitare la prescrizione in questo caso. Io credo che Berlusconi voglia essere assolto e non prescritto, e per una volta la possibilità, senza legittimi impedimenti, uveiti, scudi vari, di farsi processare, di dimostrare che in questi 20 anni non è sfuggito ai processi e che appunto è innocente nel processo e non perché il reato viene prescritto. Ma la Cassazione, questo processo breve, ci lamentiamo sempre che è lenta la giustizia, per una volta che ha una durata ragionevole per evitare una prescrizione ci si lamenta ancora. Io sono rimasta colpita, che non so se l'avete letta la notizia dell'altro ieri, dell'imprenditore di Latina che è stato condannato a 2 mesi di reclusione e 20 giorni per aver evaso il fisco per 21,51 euro. Sì. Questa è la legge per i cittadini normali e comuni. Beh, insomma, che spero non debba essere la legge normale, è una follia, 21 euro di... È una follia, però gli italiani che non hanno scudi e che non possono dilazionare i tempi dei processi, e poi Berlusconi finora non ha avuto condanne definitive, anche perché molti reati sono stati eliminati con legge ad personam, perché ci sono state appunto prescrizioni. Hai capito la Luisella come combatte? Serenamente, in udienza vedremo, magari davvero ha ragione Tortorella. Vedremo al 30 luglio. Comunque Luisella Costamagna, vedete, si sveglia oggi, era indignata, l'aveva detto. Quindi andiamo alle informazioni sul traffico, poi la segreteria. Maurizio è indignata, quindi è così. 24 mattino. Ma vorrei portare la mia solidarietà al 70enne che ha preso 1000 euro di multa per aver detto Italia di merda. Ribadisco anche il concetto: l'Italia è una nazione di merda, composta da politici di merda. Allora, buonasera, senta, io pochi giorni fa ho subito un furto di un portafoglio dentro il mio negozio e di conseguenza mi hanno anche preso la patente. Questa mattina sono stata fermata dai carabinieri. Allora, io ho dovuto pagare 41 euro e mi è stato anche detto che ho fatto Natale. Questa è l'Italia, allora io dico, se io devo essere cittadina italiana a queste condizioni, è meglio che me la tolgo una cittadinanza. Se prendo una prossima persona che ha qualsiasi divisa, io mi faccio arrestare. Caro Milan, negli anni 70 passai da qualche appartamento della provincia di Reggio Emilia, dove reclutavano gli addetti per le Brigate Rosse. Ne scappai veramente avvilito e impaurito. Oggigiorno non so se accetterei la loro proposta o meno. Sono arrivato a questi livelli. Buongiorno Milan, i saggi pensano. Per pensare ci fa il cervello. E questi il cervello non ce l'hanno, li mortacci loro. Si voleva fare un bel gesto, il Papa doveva portare degli autobus e portarsi i migranti in Vaticano, nei loro terreni che sono rigogliosi e ne hanno tanti. Ma stiamo scherzando, ma l'Italia sta andando a fondo, siamo tutti disperati, non riusciamo più ad andare avanti, l'Italia ha bisogno di lavorare, non di fermarsi, e noi per un processo che ormai comunque durava da anni fermiamo tutto, ma non ha senso, ma ci vogliamo svegliare? Basta, basta, basta, basta. Buongiorno Milan, qui a leggere il giornale e ascoltare la televisione c'è da incazzarsi sempre. Adesso quelli del PDL vogliono fare chissà che cosa. Ma lo sappiamo benissimo, lo sanno anche loro che la poltrona gliel'ha data Berlusconi, a tutti loro. Ma lo stipendio glielo diamo noi italiani, che non facessero casino e che non facessero cadere il governo, se no andiamo tutti a zampa all'aria. Tutti andiamo a zampa all'aria. Vabbè, sono le voci della segreteria telefonica. Maurizio, c'è da dire anche quello che dice le Brigate Rosse, frequenta il clima un pochino, cioè, ci riallacciamo a quello che ha detto Beppe Grillo, vorrei un parere da voi. Insomma, il clima è un po'... È vero che la gente chiama anche da noi, la segreteria da giorni si sfoga, ah, prendiamo, andiamo, facciamo, bastoni, fucili, e poi non si fa nulla, fortunatamente. Però guarda che sono molte di più rispetto a qualche mese fa le persone che hanno questa sensazione. Allora, quando Beppe Grillo dice c'è gente che vorrebbe risolverla a bastoni e fucili, non ha tutti i torti, almeno a parole è così, purtroppo. Sì, sai cosa penso io di Grillo? Lo sai bene, certo. Tutte le volte ne parliamo. Io trovo che Grillo in realtà è uno dei fomentatori di questa situazione di aggressività verbale che io personalmente trovo ripugnante, perché titillare il peggio di un paese, il peggio di un popolo, non è mai una pratica commendevole, è qualcosa di abbastanza disgustoso e indecoroso. Per carità, ognuno è libero di fare propaganda come diavolo gli pare, però non ditemi che è una cosa gradevole. Grillo è l'espressione del peggio, con la P maiuscola. Poi ognuno ha le opinioni che vuole, io così la considero. È il parere, cioè non so, Luisella, la pensa in maniera opposta, ma insomma, questo è bello, ci confrontiamo. Sì, assolutamente opposta. L'unica cosa sulla quale sono d'accordo con Tortorella è quello che diceva prima, che il governo non sta facendo niente, per cui su quello siamo d'accordo, su Grillo assolutamente no. Cioè, io penso che abbia ragione tu a dire che in realtà sta dicendo delle cose reali e anzi penso all'opposto. Altro sì, però dice Maurizio, Luisella, Maurizio ci sta dicendo andare a tutti i giorni a sottolineare che c'è gente che vogliono usare i bastoni, che noi siamo gli unici a fermarli in maniera forse democratica, tra l'altro ha detto. Cioè, come dire, è un po' alimentare un po' il fuocherello che è lì, uno ogni tanto passa ci butta un legnetto, no? Capisci? Penso che anzi una ondata assolutamente antipolitica, anche di odio, di drammaticità che c'è stata nel nostro paese, sia stata canalizzata in modo assolutamente democratico e costituzionale dal Movimento 5 Stelle, cosa che su questo non c'è dubbio. Conosce le cose, sa benissimo, è avvenuta in altri paesi che sono finiti nelle mani di estreme destre, da Marine Le Pen in Francia ad Alba Dorata in Grecia. E quindi elementi davvero preoccupanti. Su quello che ha detto. Perché dice, cioè, Maurizio dice, Luisella sta dicendo alla stessa modo anche loro canalizzano un dissenso che potrebbe esprimersi in maniera violenta, allora sono lo canalizzano dice in maniera democratica, che è quello che dice Beppe Grillo, altrimenti potrebbe degenerare se la gente non si riconosce in un movimento costituzionalmente inquadrato. Senza contare che ha detto ieri, dopo l'incontro con Napolitano, delle cose che io mi aspetterei dalla politica maggioritaria di questo paese in questo momento, cioè che siamo in una situazione drammatica e sarebbe il momento di dire veramente agli italiani come stanno le cose. Mi sembra, se ci pensate, dai titoli dei giornali in questi giorni, ce la faremo, basta autolesionismo, ritroviamo la fiducia in noi stessi, di essere tornati ai tempi davvero dei ristoranti sono pieni del governo Berlusconi, che per questo fu criticato, che invece di ammettere la drammaticità della situazione italiana spandere ottimismo e fiducia. Mi sembra che questo stia facendo il governo, e Grillo semplicemente ha detto raccontiamo le cose come stanno, siamo al limite a rischio default, questo ce lo dicono il Fondo Monetario Internazionale, mica Grillo, ovviamente lo dicono le agenzie di rating che poi vengono sconfessate chiaramente dalle giuste parole di un ministro che dice che si dicono stronzate, questo è successo. Allora noi qua ci dobbiamo fermare, il clima, oh ma ragazzi, ma io vorrei andarmene in vacanza in un clima, in un clima da luglio, cioè qua invece, come scrive il giornale, crolla tutto, comunque succedono casini, vabbè, sta di fatto che il 30 c'è la sentenza, io il 29 sono in ferie, ve lo dico, via dall'Italia, via dall'Italia. Grazie Luisella Costamagna per essere stata con noi, grazie a Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Oggi Panorama è in copertina, i lavori che faranno i nostri figli, il futuro, se li avranno, no, scusate la pessima battuta, certo che ci saranno i lavori, ma insomma, speriamo. Ci fermiamo qui, giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Ventiquattro Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, sono le 7:16, ben ritrovati dopo il nostro parlamento delle 6:30. Se vi siete svegliati ora, ben aggregati e debosciati, come dico sempre. E ride, Paolo Corleone in regia ride, è così, si è debosciati. Noi siamo qua dalle 6:30 e quindi potreste farci compagnia anche da prima, o no? Vabbè. Allora, oggi di che parliamo? Beh, parliamo della situazione attuale, di grande confusione del paese, la politica che sembra terremotata dopo la decisione della Cassazione di fissare al 30 luglio l'ultimo grado di giudizio per l'appello Mediaset, per il processo Mediaset a Silvio Berlusconi, il rischio di una condanna definitiva, il rischio che vada tutto gambe all'aria anche per quel che riguarda l'esecutivo. Allora avremo i nostri direttori Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano, Alessandro Sallusti del Giornale con noi. Ci sarà anche Antonio Di Pietro, il re di Vivo Di Pietro, alle 8:45. Questi gli ospiti che avremo più tardi su questo tema. Ora andiamo a leggere i giornali che trovate in edicola. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. Vabbè. L'Italia, insomma, eccoci, i giornali per l'appunto, i titoli in questo 11 luglio, giovedì 11 luglio, il Sole 24 Ore, i bot superano il test Standard & Poor's, questo è il titolo di apertura del Sole, mentre la vicenda politica è una vicenda che tiene banco un po' su tutti gli altri quotidiani. Per il Corriere della Sera l'apertura è Napolitano a Letta, vai avanti. Repubblica, caos in aula, il PDL minaccia la crisi. Il Fatto Quotidiano, il PD si cala le brache, ma solo per un giorno. Il Giornale, qui crolla tutto, questo è il titolo di apertura. La Stampa, giustizia, Parlamento bloccato. Il Messaggero, il PDL blocca le Camere, caos PD. Libero ha un'esplicita richiesta a Giorgio Napolitano. Giorgio, facci la grazia. Cioè l'invito espresso di Libero è, in caso di condanna, Napolitano, dai la grazia a Silvio Berlusconi. L'Unità, il ricatto inaccettabile. Il Manifesto mette una foto della Camera vuota e il titolo è Camera d'aria. Il Secolo, Camere bloccate per Berlusconi. Avvenire, il Parlamento si ferma ma il Paese non aspetta. E insomma, come vedete, questi sono i titoli di apertura. Io però voglio partire da due vicende che riguardano il mondo giustizia e che sono ben diverse, ben lontane dalla vicenda Berlusconi. Una è una notizia che trovate come cronaca su tutti i giornali. È una notizia terribile, è stata uccisa una donna dal suo ex marito, è successo in provincia di Palermo. La cosa incredibile nel dramma già di per sé, la cosa incredibile è che questa persona era stata denunciata 6 volte per stalking. Sapete che spesso si dice denunciate, è giusto, adesso ci sono gli strumenti per colpire, per isolare, per fare in modo che... Ecco, Ecco, poi chi ha l'esperienza diretta si scontra con questi fatti. Denunce ignorate, lui ammazza la ex, la madre dice ce l'avete sulla coscienza. Questo per esempio è il titolo di Repubblica, pagina 19. Ma guardate anche La Stampa, dopo anni di violenze, ammazza l'ex compagna con 10 coltellate. Questo sulla Stampa. Il Corriere, stalker denunciato 6 volte, ammazza l'ex compagna. Alfio Sciacca racconta la cronaca, pagina 21. Tra l'altro un omicidio compiuto davanti agli occhi del figlioletto di 2 anni, il figlio di Rosi, compirà 2 anni proprio oggi, pensate. Ieri mattina il nonno lo ha trovato rannicchiato accanto al cadavere della madre, ammazzata mezz'ora prima dall'ex convivente. Almeno 10 coltellate al petto, alle spalle. Rosi Bonanno, 26 anni, si era rifugiata per sottrarsi alle minacce dell'ex convivente nella cucina della casa dei genitori. Qui è stato trovata e l'uomo, Benedetto Conti, 36 anni, è stato arrestato qualche ora dopo a Villa Abate, dove avrebbe tentato un improbabile suicidio ingerendo del veleno per topi. Per questo è stato sottoposto a lavanda gastrica ed è ampiamente fuori pericolo. Ma la vicenda, ripeto, nel dramma già di per sé, ancora più incredibile è questa delle 6 denunce. Per la verità la procura di Palermo si difende dicendo in realtà noi abbiamo solamente 2 esposti, solamente, e poi questi 2 esposti sono stati ritirati dalla stessa donna perché aveva minimizzato l'accaduto. Anche l'Unità dedica una pagina a questa tragedia. Rosi, uccisa dall'ex, denunciato per stalking. Il 44esimo femminicidio dell'anno, la vittima aveva chiesto per 6 volte la protezione dello Stato ed è stata accoltellata davanti al figlio di 2 anni. Ora, che bisogna dire? Per carità, cioè la cosa più grave in sé è l'omicidio che è avvenuto, ma all'interno di questo dramma, ma come commentare? Saranno stati 6 esposti? Saranno stati 2 gli esposti? La famiglia dice me l'avete uccisa, siete complici, allo Stato ovviamente. E come darle torto? Come darle torto? Questo è il dato di cronaca relativo al mondo della giustizia da cui volevo partire. Questa notizia la trovate davvero approfondita dovunque, sui giornali. Come invece il mondo della giustizia un po' impazzito, lo racconta Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere della Sera. Su 69 giudici ne inviano 63 dove non c'è il tribunale. Questo è il titolo di prima pagina. Chi spartisce gioisce, assicura un vecchio adagio, ma il Ministero della Giustizia non la pensa così. E potendo distribuire nei vari uffici giudiziari d'Italia, da Vipiteno a Lampedusa, 69 nuovi magistrati, solo 69, ne ha mandati 63 a Napoli Nord e 6 a Spoleto. E gli altri? Gli altri ciccia. Risultato, mugugni generali, tradotti dagli avvocati veneti in un ricorso per fare annullare tutto. Ecco perché poi in Italia ci sono sempre ricorsi per annullare tutto. Tanto più che il nuovo tribunale di Napoli Nord, dove sono stati mandati 63 magistrati, fisicamente non esiste. Così Gian Antonio Stella, poi l'articolo continua a pagina 23. Che l'area settentrionale del capoluogo campano abbia bisogno di una giustizia che funzioni, fuori discussione. Il territorio del nuovo tribunale di Napoli Nord, istituito nel settembre 2012 a Giugliano, in Campania, raggruppa vari uffici, uno dei più difficili d'Italia. Basti pensare che comprende Aversa, Casal di Principe, Casa Pesenna, Marano, tutti centri ad altissima densità camorristica, dominati dai casalesi, dai loro alleati. Che lo Stato decida di investire una forza d'urto in quella zona assolutamente è doveroso. Nessuno si sogna di metterlo in discussione. Quindi questa è la premessa. Ma usciti dal concorso in 69, 6 a Spoleto, gli altri a Napoli Nord. Dice Stella, non è arrivato neppure uno, per esempio, in Veneto, con una decisione presa nel giro di poche ore dal CSM, dall'allora ministro della giustizia Paola Severino, il 18 aprile scorso, quando praticamente nessuno se ne accorse perché quel giorno tutta l'Italia aveva gli occhi puntati sul clamoroso tracollo della candidatura di Franco Marini alla presidenza della Repubblica. I 69 magistrati a disposizione furono ripartiti così: 63 a Napoli Nord e 6 a Spoleto, scelta imperscrutabile. Nel resto d'Italia 0 carbonella. Avuta notizia, gli avvocati veneti si sono consultati, si sono arrabbiati, si sono decisi a presentare un ricorso al TAR del Lazio firmato da Antonino Galletti per conto del presidente dell'Unione Triveneta dei Consigli e l'Ordine degli Avvocati, il veronese Antonio Francesco Rosa. Per dire, come dire, ma tutti lì a Napoli Nord era davvero necessario? Vabbè, questa storia la trovate sul Corriere della Sera. Prima di andare alla pubblicità, una notizia che può far arrabbiare qualcuno, ha fatto arrabbiare qualcuno in Parlamento, altri invece l'hanno sottoscritta e altri ancora ascoltandola potrebbero tenere le mani strette, strettissime sul volante. Siamo sul Giornale a pagina 12. Succede che è stato dato un assegno straordinario a un ex parlamentare del Popolo della Libertà che è invalido al 100%, si tratta dell'ex onorevole Carmelo Porcu, e a lui è stato dato un assegno straordinario di 2.200 euro al mese finché non maturerà il vitalizio, cosa che avverrà tra un anno e mezzo. Lo ha deciso, e questa somma si aggiunge al trattamento che l'ex parlamentare percepisce dallo Stato in quanto affetto da una gravissima invalidità, quindi ha l'indennità per questa gravissima indennità invalidità al 100%. Maturerà tra un anno e mezzo il vitalizio e in più l'ufficio di presidenza della Camera ha dato a lui, Carmelo Porcu, che ha fatto 5 legislature a Montecitorio, ha deliberato di dare 2.200 euro straordinari al mese da qui fino a quando maturerà il vitalizio. Cari invalidi d'Italia al 100%, avete anche voi un trattamento del genere, no? Voglio pensare, un privilegio del genere. Lo ha deciso l'ufficio di presidenza della Camera, nonostante ci sia stata una protesta per esempio del Movimento 5 Stelle che ha votato contro anche Ferdinando Adornato di Scelta Civica, ma a maggioranza la proposta è passata. E dunque, per l'ex deputato del PDL invalido al 100% Carmelo Porcu, che già gode, come è giusto e legittimo e sacrosanto, della indennità per questa invalidità da parte dello Stato e che tra un anno e mezzo godrà del vitalizio dopo 5 legislature, anche questo è secondo la legge, in più un assegno straordinario di 2.200 euro da qui fino a quando otterrà il vitalizio tra un anno e mezzo. Voilà! Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, la politica. Beh, oggi se prendete qualsiasi quotidiano troverete 10 pagine di politica, di quello che è successo ieri, la giornata dopo che, riepilogando velocemente, la Cassazione 2 giorni fa ha stabilito il 30 luglio l'udienza definitiva per il processo Mediaset, condanna in appello a Berlusconi 4 anni, interdizione 5 anni ai pubblici uffici, dunque rischia, in caso di condanna definitiva, di accelerare insomma anche una crisi parlamentare che già ieri ha avuto qualche evidente manifestazione con la richiesta alla fine del Popolo della Libertà di sospendere per un giorno, richiesta accolta, i lavori per parlare, per cercare di capire da parte del gruppo di Camera e Senato che fare. Allora, caso Mediaset, il PDL blocca le Camere. Ah, ovviamente questo ha suscitato tutta una serie di dibattiti, di proteste e di anche commenti, da qui le 10 pagine almeno di ogni quotidiano dedicato a questo. Il titolo che ho letto, caso Mediaset, il PDL blocca le Camere, la cronaca parlamentare sul Sole 24 Ore, la trovate a pagina 9 con Barbara Fiammeri. Prima il no alla riunione di maggioranza calendarizzata per il primo pomeriggio, poi la minaccia di bloccare il Parlamento 3 giorni, infine la richiesta di sospensione dei lavori per un giorno, votata a maggioranza da Camera e Senato. Il PD però si spacca. Il PDL ondeggia tra propositi bellicosi di crisi di governo, di dimissioni di massa dal Parlamento e iniziative meno radicali in attesa del verdetto della Corte. Nulla è stato deciso. Berlusconi ieri sera ha riunito a Palazzo Grazioli lo Stato Maggiore del PDL e al momento non si capisce, scrive Fiammeri, il che fare. Berlusconi Dalla riunione dei gruppi parlamentari non sono arrivate indicazioni. Alfano consegna una serie di sintesi delle proposte. Chi propone dimissioni di massa, chi manifestazioni locali di sostegno, chi appoggio forte pubblico ai referendum radicali sulla giustizia. Tutti hanno gridato contro l'attacco del presidente, dichiarandosi pronti a tutto. Le analisi, che succederà ora? Ci si divide nel PDL tra falchi e colombe. Berlusconi pare voglia fare, stia facendo la colomba, cioè a dire, secondo Francesco Verderami, pagina 3 del Corriere della Sera, l'attesa di Berlusconi, con una condanna le larghe intese finirebbero, questo è il titolo, ai suoi, però dice a chi gli chiede, caro presidente, dobbiamo fare gli arrabbiati o solo i preoccupati? Risponde Berlusconi, solo i preoccupati, così almeno nel retroscena di Francesco Verderami sul Corriere. Scrive Verderami, l'Italia al buio, c'è il buio oltre la sentenza giudiziaria che verrà emessa a fine mese dalla Cassazione su Berlusconi, c'è il buio oltre il verdetto economico pronunciato l'altro ieri da Standard & Poor's sul rating nazionale. Per quanto distinti e distanti, questi due giudizi richiamano alla memoria l'inizio degli anni 90, la fine della Prima Repubblica, la crisi che investì il paese, la perdita di asset strategici finiti all'estero. Perciò non sono sfuggite alle massime cariche dello Stato alcuni particolari delle due vicende. Il fax inviato due giorni fa alla Cassazione dalla Procura di Milano sui tempi di prescrizione del processo Mediaset, così come la decisione di Standard & Poor's di declassare l'Italia nel bel mezzo della settimana e non il venerdì sera. Saranno solo coincidenze, ma è evidente la pressione sul governo delle larghe intese che nel PDL, come in un pezzo del PD, è definita ostilità. Questo Verderami, che però dice Berlusconi, appunto, è più colomba che falco. La proposta, per esempio, del quotidiano Libero, col direttore Maurizio Belpietro, è molto chiara. Il titolo di prima pagina è questo. Ecco, quando magari lo trovo riesco anche a leggerlo. Giorgio, facci la grazia, le pressioni sulla Cassazione sono fortissime, anche se la condanna non ha fondamento, c'è il rischio che venga confermata. A quel punto, scrive Libero, Napolitano può salvare la democrazia con un'iniziativa straordinaria ad personam, che è quella che è prerogativa appunto al Presidente della Repubblica, cioè fare la grazia a Berlusconi, concedere la grazia a Berlusconi. Il titolo a pagina 2-3 è proprio questo, fagli la grazia. Cioè, Libero si porta avanti, dovesse arrivare una condanna, scrive Belpietro nell'editoriale, Berlusconi, Napolitano dovrebbe fare questo gesto, la grazia a Silvio Berlusconi, che ne pensate? Così si ripacifica tutto, la pacificazione. E in tutto questo anche Claudio Tito mette uno scenario, pagina 1, 2, 3 di Repubblica, insomma la situazione politica sembra drammatica e drammaticamente appesa a un filo come è sopra l'Italia, come un funambolo col rischio di cadere di sotto. Bisognerebbe trovare una soluzione per rinviare questa maledetta sentenza, questa è la frase che Claudio Tito attribuisce a Silvio Berlusconi, lo sfogo con i suoi. Ci vuole un modo per farla saltare, ci sarà pure un modo, perché io non ho voglia di fare una campagna elettorale, non so se mi va di far cadere il governo e ricominciare tutto da capo. Questa sarebbe la sensazione in cui si troverebbe in questo momento Silvio Berlusconi. Il PD si è spaccato. Beh, l'avete sentito, lo straordinario intervento, l'abbiamo mandato alle 6.30, a mio modo di vedere è uno spaccato proprio di politica allo stato puro o non politica allo stato puro. Ettore Rosato del PD, che ieri motivava dicendo noi siamo contro il blocco di ogni, il tentativo di bloccare in ogni modo i lavori del Parlamento, siamo sempre stati contro il blocco dei lavori, ma consentiamo a questa richiesta del Popolo della Libertà perché è stata fatta con molta gentilezza. E qui ovviamente dice ma come, hai appena detto un secondo prima che siete contrari ma anche a favore, un po' torna al manchismo di Veltroni, come se ricordate bene all'interno del PD. Beh, il PD si spacca, tra l'altro c'è un'intervista a Guglielmo Epifani, segretario del PD, intervistato dall'Unità, pagina 3, da Simone Collini. Il titolo è: superato ogni limite, così non si va avanti. Il PDL mette a rischio la funzione stessa di questo governo, dice Epifani. C'è un limite oltre il quale il senso di responsabilità nostro, che anche oggi abbiamo dimostrato, non può andare. O c'è un chiarimento serio o il PDL dimostra di essere interessato ai problemi del paese e non alle vicende di giudiziari di Berlusconi, oppure con la stessa forza con cui abbiamo fatto nascere questo governo, diciamo che così non si può andare avanti. Così Guglielmo Epifani poi fa una lunga intervista che trovate appunto a pagina 3, ma il succo, la cosa importante è proprio questa, cioè secondo Guglielmo Epifani ora basta. Ovviamente, o meglio, ora basta, si rischia davvero, con usare il termine e la metafora che io ho usato, si rischia di spezzare la corda. A questo proposito, PD, attenzione, i renziani sono quelli che sono stati più malpancisti su questo accoglimento di richiesta del Popolo della Libertà. Udite bene la rabbia di Renzi, secondo Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. La rabbia di Renzi, il titolo è: così si ammazza il PD. Ieri Renzi ha commentato con i suoi a Camera e Senato, ha sussurrato questo: è incredibile, riferito ai suoi, hanno fatto una figura di merda e sono giorni che ne facciamo come partito e come governo. È come se ci fossimo messi a tirare rigori contro la nostra porta. Il titolo sintetizzato è: così si ammazza il PD, Matteo Renzi. Altro elemento per suscitare nuove tensioni e polemiche. In tutto questo, ieri Letta è andato da Giorgio Napolitano. Il governo appesa un filo, ma Letta avvisa: non resto a ogni costo, pagina 3 della Stampa. Ma soprattutto interessante l'articolo a pagina 6 del Corriere della Sera, Monica Guerzoni: Letta faccia a faccia con Napolitano, che gli ha detto si va avanti con determinazione. In realtà anche qui su Giorgio Napolitano Libero ha un retroscena interessante. Barbara Romano a pagina 2: Re Giorgio, non sciolgo le camere, piuttosto mi dimetto. Questo è il titolo: piuttosto che sciogliere le camere, mi dimetto. Secondo Libero, non ha usato giri di parole ieri Giorgio Napolitano per spiegare a Enrico Letta quanto sia lontano dalle sue intenzioni porre fine alla 17ª legislatura. Non è nemmeno l'estrema razio per l'inquilino del Colle, che come gesto ultimo pensa piuttosto a quello minacciato nel discorso a Montecitorio. Se mi troverò di nuovo dinanzi a sordità, disse Napolitano, come quelle contro cui ho cozzato nel passato, non esiterò a trarne le conseguenze dinanzi al paese. Disse così il 22 aprile, ventilando proprie dimissioni in caso di una nuova crisi di governo. E allora questa è la linea di Libero, cioè non si va a elezioni, piuttosto mi dimetto. Comunque la crisi politica davvero è difficile, è una ipotesi a questo punto. È intervenuto anche il primo presidente della Corte di Cassazione, il primo presidente Santa Croce. Non siamo banditi di Stato, questo è il titolo che ha usato ieri il giornale, ne chiederemo conto anche ad Alessandro Sallusti alle 8:15. Non siamo banditi di Stato, è doveroso evitare prescrizioni, pagina 4 del Fatto, Marco Lillo e Antonella Mascari. Perfino il primo presidente di Cassazione Luigi Santa Croce, un moderato eletto coi voti di Magistratura Indipendente e Unicost, cioè due delle correnti dei magistrati, ieri è sceso in campo. Il giudice, già finito nel mirino della stampa per frequentazione con Previti decenni fa, ha detto: non c'è nessun accanimento, il senatore Berlusconi è stato trattato come qualunque imputato in un processo con imminente prescrizione. Tra l'altro ha aperto anche al possibile rinvio della sentenza. Repubblica: Santa Croce apre al rinvio della sentenza Mediaset, nessun accanimento su Berlusconi. Anche il giornale la vede così: la Cassazione apre, nessun accanimento possibile, un rinvio. Tra l'altro il giornale attacca su un altro giudice che ha giudicato Silvio Berlusconi, da qui riparteremo tra poco. In prima pagina c'è la storia del magistrato Alessandra Galli, la giudice rapida a condannare il cavaliere, ma non rapida nel motivare una sentenza contro uno stupratore. Sul giornale a pagina 2 tra poco. A Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Guardate che anche oggi c'è il premio La Carta Costa, eh? Tenetevi forte perché oggi è una roba spaziale, spettacolare. Comunque, dicevamo sul giornale, la storia raccontata da Luca Fazzo a pagina 2, ecco la giudice, rapida col cavaliere ma non con gli stupratori, la storia della, la storia, insomma, il racconto della, del magistrato milanese Alessandra Galli, che lo scorso 8 maggio era una dei giudici che nell'aula della seconda sezione penale ha letto il dispositivo della sentenza che confermava la condanna per frode fiscale inflitta a Berlusconi, ma racconta il giornale, ha preso parte anche a un altro processo, un processo in cui un dentista è stato condannato per avere drogato le sue pazienti e avere ripetutamente abusato di loro. Nel giugno dell'anno scorso il processo d'appello approda alla seconda sezione penale della Corte d'Appello di Milano, presidente il giudice La Pertosa, Alessandra Galli è giudice latere e relatore. Il 12 luglio la Corte dichiara il dentista colpevole del reato di violenza sessuale aggravata, ma oggi, scrive il giornale, a distanza di un anno, il dentista è ancora a piede libero. Perché? Perché mancano le motivazioni della sentenza, della condanna, e il relatore che le deve scrivere è proprio lei, Alessandra Galli, che non ha scritto in un anno le motivazioni della sentenza contro un maniaco. Il processo in Cassazione non si può tenere perché le motivazioni della condanna emessa in appello non sono mai state depositate. E quindi, scrive il giornale, veloce a condannare Berlusconi, ma nel caso di questa vicenda di una violenza sessuale non ha mai scritto le motivazioni, non si può celebrare il processo in Cassazione. Va bene, in tutto questo anche Grillo ieri si è messo, è andato da Napolitano, poi ha fatto la conferenza stampa nella quale ne ha avuto per i giornalisti, ha detto, e questo è il titolo, la gente è pronta ai fucili, si torni al voto, solo noi manteniamo diciamo all'interno della democrazia gli istinti anche della gente di prendere fucili, bastoni. Conquista certamente pagine di tutti i giornali, è un accaporetto subito al voto, titola per esempio La Stampa pagina 9, oppure Libero, Grillo agita i fucili, Grillo e Casaleggio al Quirinale, poi il leader evoca i fucili, due pagine sul Corriere della Sera pagina 8. In tutto questo viene in questa conferenza stampa di Grillo ieri si è intrufolata anche Adele Gambaro, la senatrice del Movimento 5 Stelle, che è stata cacciata dopo le dichiarazioni che ha fatto su Sky. Viene intervistata da Andrea Malaguti della Stampa, dice: bah, dire che è democratico il movimento faccio fatica a dirlo. Addirittura sul Fatto Quotidiano, secondo il Fatto Quotidiano, Adele Gambaro, scrive Paola Zanca, a pagina 6, si lascia sfuggire queste frasi. Grillo, sembrano una setta questi del Movimento 5 Stelle, sembrano quasi dei nazisti. Queste sono le frasi che Paola Zanca del Fatto raccoglie, dette da Adele Gambaro ai margini della conferenza stampa. E vabbè, come vedete la politica è tutta qui, impazzimento, rischio di fine di legislatura, il paese intanto va avanti, non si decide nulla, si deciderà tutto in quello memorabile autunno del 2013 dove dovranno decidere un po' su tutto, IVA, IMU, F35, ticket sanitari, spesa, revisione della spesa, abbattimento del debito, tutto lì, sempre che ci sia ancora un governo in autunno. Sta di fatto che ieri il ministro dell'economia Saccomanni se l'è presa con Standard & Poor's, la critica è contro l'Italia, c'è accanimento, ricordate Verderami che scriveva sul Corriere, vi dicevo poco fa, queste coincidenze, cioè da una parte le sentenze, dall'altra parte questo Standard & Poor's ricorda, diciamo, la fine della Prima Repubblica, questo clima a qualcuno. Saccomanni ha criticato gli analisti di Standard & Poor's, paragonati a delle specie di ragionieri che estrapolano meccanicamente dati, oltretutto passati, capaci di lanciare bombe dagli effetti devastanti e prociclici. Insomma, non trattiene l'irritazione il ministro dell'economia Saccomanni nel commentare la decisione di Standard & Poor's di declassare l'Italia. A giudicare dall'asta, per esempio, dei bot, diciamo qualcuno se ne è infischiato un po' del giudizio di Standard & Poor's, come racconta il Sole 24 Ore in prima pagina. I bot superano il test Standard & Poor's, l'asta dei bot ignora di fatto il declassamento dell'Italia deciso dall'agenzia, di rating. Il tesoro è riuscito infatti a collocare 9,5 miliardi di euro in botta a 12 mesi con un rendimento tornato al di sopra della soglia psicologica dell'1% e dunque in qualche modo questa decisione di Standard & Poor's è stata ignorata almeno nel mercato finanziario se si giudica questo dall'asta dei bot. Che altro c'è da dire? Beh, c'è molta cronaca, soprattutto questa storia davvero straziante di questa ragazza Beatrice, 16 anni, che è stata travolta da un'auto pirata a Gorgonzola in provincia di Milano. Il dramma nel dramma è che nell'ambulanza corsa per soccorrere dopo l'incidente questa ragazza c'era il padre della ragazza, che era volontario e che quindi quando è arrivato ha assistito alla scena dopo l'incidente che ha coinvolto sua figlia. Questo padre, che in maniera molto molto lucida ha detto al pirata della strada, perché la persona che ha travolto questa ragazza è scappato poi, consegnati il criminale, quel criminale si consegni alla giustizia. Trovate soprattutto a pagina 20 del Corriere della Sera un'intera pagina dedicata a questo. Andiamo alla rapida conclusione. Allora, se andiamo alla rapida conclusione, come non dedicarci al nostro premio che sta diventando sempre più seguito anche su Twitter? La carta costa, l'articolo più inutile scovato oggi sui giornali. Oggi siamo sul Giornale a pagina 21, tre quarti pagina, firmati da Gianluca Grossi, dal titolo "Gli uccelli attaccano gli uomini". Sembra l'horror di Hitchcock. Io quando l'ho letto ho detto: "Dio, io non esco più dalla redazione". Gabbiani in Inghilterra, falchi a Tokyo, cornacchie a Roma, altro che indifesi, volatili aggrediscono sempre più. Ed è un articolo in cui in tre quarti pagina si racconta tutte le storie dei gabbiani che attaccano i postini in Cornovaglia, ma anche a Tokyo i falchi che hanno ormai preso possesso colonizzando i grattacieli più alti della metropoli e si buttano sulle vittime di sotto. A Roma le cornacchie, come fate cari romani a uscire di casa oggi? Ci sono le cornacchie, scrive il Giornale. Ecco qual è il problema dell'Italia, gli uccelli. Vabbè, cari amici del Giornale, ricordatevelo però, la carta costa. 24 mattino. Le 8:15 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora vogliamo approfondire quella che è la situazione politica attualmente nel paese. Piccolo sunto della giornata di ieri, ma piccolo, striminzito. Il Parlamento si blocca per un giorno, così ha chiesto il PDL, dopo che la Cassazione ha fissato al 30 luglio la sentenza definitiva sul processo Mediaset a Berlusconi. Berlusconi che, ricordiamo, rischia in caso di condanna definitiva i 4 anni di condanna con 5 anni di interdizione ai pubblici uffici. E lì partito la polemica generale. Il PDL in questo momento è un po' diviso tra falchi e colombe. Che succede? Che facciamo? Facciamo crollare il governo delle larghe intese, sì o no? Berlusconi pare sia tra le colombe. I grillini protestano, gridano vergogna dopo la sospensione del Parlamento, si tolgono giacca e cravatta, vanno fuori dalle camere, fanno un sit-in. Poi Grillo, tra l'altro, nel frattempo aveva incontrato Napolitano, il capo dello Stato, e in conferenza stampa dice: attenzione, qui la gente parla di fucili, bastoni, noi siamo l'unico elemento democratico che convoglia tutta questo sfogo anche verbale di violenza. E il PD? Beh, il PD è riassunto nella sua straordinaria efficacia dall'intervento che l'onorevole Ettore Rosato ha fatto in aula per motivare il perché dell'accoglimento della richiesta del PDL di sospendere la Camera per un giorno. Sentite Ettore Rosato, sentite come inizia. Noi siamo contrari, ecco, e lo abbiamo detto a chiare lettere in conferenza dei capigruppo, a qualsiasi tentativo di blocco delle istituzioni, di qualsiasi tipo e da chiunque proposto. Contrari. Ma con la stessa chiarezza, noi siamo per acconsentire a una richiesta che il capogruppo Brunetta ha posto in termini siamo molto contrari, concreti, molto concreti, ma anche per all'interno della conferenza dei colleghi, capigruppo, per favore, siamo colleghi, contrari al blocco delle istituzioni, ma siamo per la richiesta, accoglie la richiesta del capogruppo Brunetta. Renzi, secondo il Corriere, avrebbe commentato così: sono giorni che come partito e come governo facciamo figure di merda, così il partito muore. Voglio salutare Antonio Padellaro, che è il direttore del Fatto Quotidiano. Buongiorno direttore. Buongiorno. Così come saluto il direttore del giornale Alessandro Sallusti. Buongiorno direttore. Eccoci. Buongiorno. Sallusti, oggi voi titolate, lei titola "Qui crolla tutto". Allora, non è vero che Berlusconi in realtà è tra le colombe che sta cercando di frenare i falchi, così sono divisi nel PDL? No, ma non mi sembra una questione stretta dentro il PDL, come se il PDL avesse la bacchetta magica per decidere cosa fare. Qui insomma c'è Grillo che va al Quirinale e chiede le elezioni anticipate, il PD che si spacca credo in maniera ulteriormente irreversibile al suo interno, il PDL che non solo è diviso ma addirittura è minacciato di morte, nel senso che c'è questa sentenza che potrebbe decapitarlo, Napolitano che dice guardate ragazzi che io non sto qui 7 anni, insomma non mi sembra uno scenario molto solido. No, no, questo no, cioè quindi secondo lei poi la politica si sa è l'arte del dire e un minuto dopo dire il contrario, però in questo momento il termometro segnerebbe... Ma non lo segnerebbe perché PDL minaccia di togliere la fiducia al governo in caso di condanna, ma perché credo che queste fratture siano irreversibili, cioè sono pezzi di cose che possono ancora stare attaccate in qualche modo per qualche tempo, ma questi strappi sono irreversibili a mio avviso. Poi mi auguro l'inverso, non vedo un grande futuro per questo momento. È chiaro che il 30 luglio poi si capirà anche qualcosa di più, sempre che la Corte di Cassazione non rinvii, perché c'è anche questa ipotesi. Direttore Padellaro, voi titolate invece "Il PD si cala le brache, ma solo per un giorno". Siete più, secondo lei è più responsabilità del PDL di aver chiesto di sospendere i lavori per un giorno in virtù di una fissazione di una data di un'udienza, oppure ha più responsabilità politica ovviamente il PD per aver assecondato questa cosa? Beh, Ennio Flaiano diceva la situazione è grave ma non è seria. Allora intanto partiamo da questo triduo penitenziale che il PDL aveva chiesto, no? Bisogna un po' parlarne perché è abbastanza divertente il fatto che si chieda la sospensione dei lavori parlamentari come una specie di risarcimento morale per il proprietario che ha dei guai giudiziari. Ora io capisco che per alcuni del PDL, per Berlusconi sia una sorta di divinità, perché molti senza di lui dovrebbero anche mettersi a lavorare, però ecco, trovo che ci sia un fatto nuovo nella politica italiana, appunto questa sorta di rito sciamanico. Però la situazione non è seria, quando lei giustamente ha fatto sentire questo esponente del PD, quando il PD non ha perso completamente l'orientamento, quelli del PD non sanno più cosa sono e quindi ogni giorno cambiano politica, cambiano atteggiamenti, si sono dovuti piegare, diciamo la verità, si sono piegati al diktat del PDL perché non hanno più una linea, non hanno più neanche memoria di quello che era la loro origine. Ha ragione Renzi ha usato un'espressione fortissima, le figure di M, ma di merda, sì, l'ha detto, sì, quindi sì. Così dice il Corriere, almeno. Sì, ma io credo che sia un'espressione forte, ma efficace. Terzo elemento, noi lo poniamo questa mattina, è il Presidente della Repubblica che ha voluto fortemente queste larghe intese che avevano al loro interno una bomba pronta ad esplodere, che sono i guai giudiziari di Berlusconi. Sì. Cioè, come dire, adesso non si può tirar fuori dalle queste responsabilità, dice il capo dello Stato. Assolutamente, era un'alleanza innaturale ed è, credo che Sallusti abbia ragione nel dire che prima o poi tutto questo finisce, ma finisce male. No, ma qua siamo già a parlarne al passato, voglio dire, mi sembra, cioè ne parlate già come una cosa abbastanza scritta, solo una questione di dettare i tempi di una cosa Sallusti, raffazzonata, che prima o poi è solo questione di capire il quando e il perché e il per come, ma tutto abbastanza già scritto. Ma sì, io credo che poi il detonatore non saranno questi litigi dentro la politica per delle questioni formali o sostanziali o simboliche, tipo la richiesta di ieri del PDL, che in punta di diritto è una richiesta assolutamente fondata, addirittura costituzionale, nel senso che è prassi che il Parlamento sospenda i lavori se un partito ha degli impegni interni di una certa importanza. Però mi scusi, che impegni sono in questo caso? I parlamentari sono rimasti riuniti tutto il giorno, i senatori, i deputati, perché insomma non è che stiamo parlando, come vogliono credere, di un privato cittadino che ha qualche problema con la giustizia. Sì, però la Cassazione del leader di un partito, senza il quale leader questo partito potrebbe anche chiudere. Ma questo sicuramente, però il dato di fatto è un problema per la democrazia, oltre che per il PDL. Però non so, il dato di fatto è la Cassazione ha fissato al 30 luglio questa udienza. Cioè, che ne so, domani. Sì, esatto, tra pochissimi giorni. Se uno vuole una strategia politica, nel caso che lo condannano, che il giorno 1 agosto il cittadino Silvio Berlusconi sia agli arresti, io credo che il PDL ha tutto il diritto di dire: oddio, cosa facciamo? Ma questo sì, ma non so, e questo senza dubbio. Senza tragedie, senza farse. Non poteva farlo, mi scusi Sallusti, che ne so, domani è venerdì, la Camera non lavora, sabato. Ma anche i congressi dei partiti possono essere fatti sabato e la domenica, invece vengono fatti durante la settimana e il Parlamento si ferma senza tante menate. Cioè è veramente pretestuoso dire un attacco alla democrazia, alla Costituzione, un attacco a niente. Sì, un attacco alla democrazia è quello che potrebbe succedere il 30, non quello che è successo ieri. Su una questione, Padellaro, che il Parlamento non lavori un giorno, adesso non è che voglio fare il qualunquista, che non lavori un giorno, non è che in un giorno il Parlamento, che tra l'altro non lavora il lunedì spesso, no, anche è il venerdì, mezza giornata, perché comunque c'è stata l'audizione di Letta, ma non è un problema contabile di ore, non produce nulla. No, ma infatti, ecco, esatto, questo volevo dire, non è che mezza giornata persa, no. Lavora al Parlamento, Padellaro, cioè ci sono 10 provvedimenti che sono andati in fumo per l'Italia, è più un messaggio politico che lei vuole dire. Ma certo, messaggio politico e messaggio simbolico, perché fosse stata anche un'ora di sospensione, no? Aveva il PDL, diciamo, dal suo punto di vista, ha voluto dare un carattere simbolico di protesta forte, io ripeto, anche di rito religioso, perché c'è anche questo dentro, e il PD si è accodato, questa è la cosa grave. Cioè il PDL può fare quello che vuole e io credo che abbia tutto il diritto di difendere il proprio capo. Il problema non è il PDL, il problema è che ha sempre fatto questo, poi in realtà non il problema è il Partito Democratico. Cioè la vera questione politica di questo paese è perché noi dobbiamo distinguere sempre tra questo vertice inqualificabile del Partito Democratico, dico inqualificabile perché non si sa bene se è carne o pesce, non si sa bene cosa sia, e un elettorato che è smarrito, disorientato, di persone che hanno votato il Partito Democratico sulla base di un'indicazione precisa che veniva da Bersani, mai al governo con Berlusconi, si ritrovano al governo con Berlusconi e si ritrovano a dover risolvere i problemi di Berlusconi. Però qui non possiamo rifare la storia degli ultimi 3 mesi, non c'erano i voti. Sa che oggi Epifani, intervistato dall'Unità, un giornale che anche lei conosce bene visto che l'ha diretto, dice il PDL non può continuare così, a questo punto se no la misura è colma e non possiamo più reggere oltre. Cioè, vabbè, insomma, che c'è Sallusti? Cioè la corda che si spezza. No, volevo dire, se mi risulta che il PD e il PDL siano alleati di governo, tengono in piedi il governo, allora non è che due alleati possono essere alleati su alcune cose e disalleate su altre. Come dire, c'è anche un patto di lealtà nei confronti di un alleato. Se un alleato, giusto o sbagliato che sia, ha una necessità, e l'altro, che gli piaccia o no, non è che può dire: no, sai cosa c'è, non si fa. Effettivamente l'ipocrisia è nell'alleanza, non è nel patto di ieri. Ma non poteva che fare questo. Ma credo che Padellaro dica esattamente questo, cioè nasce male questa cosa, però nasce male. Ma Padellaro, cosa dobbiamo dire? Bisognava rivotare, cioè torniamo indietro di tre mesi. Ma non è che se c'è uno stato di necessità, che certamente c'era dopo il voto di febbraio, che è soltanto tre mesi fa, non è tre anni fa, bisogna per forza scegliere la soluzione sbagliata. Voglio dire, i problemi giudiziari di Berlusconi sono una bomba a orologeria, lo sanno tutti. Come si poteva pensare che questa alleanza di governo non dovesse prima o poi affrontarli? Allora bisognava o tornare a votare o fare un governo di tipo diverso. Ora, io penso che le soluzioni in politica siano molteplici, sempre, insomma, si possono trovare, non è che dobbiamo adesso. Ma no, ma certo, Bersani, deciderlo noi. Bersani ha detto col Movimento 5 Stelle, mi sono mica matto che volevo trovare. Cioè, Ma insomma, si potevano fare. Io sarei no, non si poteva fare niente, non si poteva fare assolutamente nulla. Se fossi stato nel presidente, ma fortunatamente per il paese non sono presidente della Repubblica, avrei chiesto l'immediato ritorno al voto. Al voto. Perché è la soluzione più ma chiara. Ma per ricreare la stessa soluzione, la stessa situazione di impasse, cioè non è che gli elettori. Ma non è detto, certo, dove aver approvato una legge elettorale. Ecco, a proposito, governo di emergenza che non sta combinando un fico secco, vogliamo dire questo, almeno fare in questi mesi una legge elettorale. Ma Padellaro, ma noi qua, io sono giorni che lo dico, anche sul profilo Twitter, dico tutto, la legge elettorale, sono alla conta, siamo alla decima settimana decisiva dalla nascita del governo Letta per la riforma elettorale. Faranno tutto. Allora, di cosa stiamo parlando? E niente, fanno tutto in autunno. Soltanto per riscaldare la sedia. Vogliono fare tutto in autunno, gli F-35 in autunno, sì. L'IVA in autunno, l'IMU in autunno, la spending review in autunno, l'abbattimento del debito in autunno, e poi in autunno l'unica cosa che faranno è che si andrà a votare probabilmente, quindi non si farà niente. Esattamente. Ecco, quindi il dato di fatto è questo. Sallusti, però, prima della pubblicità, ma secondo lei Berlusconi rischia davvero il carcere in caso di condanna? Il carcere, ma proprio guardi, di entrare. Il diritto in Italia è una cosa molto vaga e la giustizia viene applicata in modo diverso su casi diversi, come dimostrano anche storie di cronaca, no? Perché l'urgenza con la quale è stata scritta la motivazione per condannare Berlusconi velocemente cozza col fatto che una donna in Sicilia è stata ammazzata dopo 6 denunce per stalking e minacce e nessuno ha fatto nulla. Per cui la giustizia italiana è molto bizzarra. Detto questo, anche se venisse messo agli arresti domiciliari, perderebbe l'agibilità politica, perché finirebbe nelle mani di un giudice di sorveglianza che decide se, come e quando Berlusconi potrà parlare al telefono, vedere, incontrare il segretario del suo partito o il segretario di un partito alleato. Secondo quindi lei farebbe comunque sarebbe bene a fare come Craxi nel caso. In mano di un magistrato, e spesso i magistrati non sono lucidi perfettamente, come dimostrano le cronache, non come dico io. Secondo lei farebbe bene a scappare, qualcuno ha ipotizzato, come no, Craxi? No, non si scappa mai, no, non si scappa. Quindi non è un'ipotesi, secondo lei, che sta valutando? Ma non lo so, io sono Berlusconi, ma non credo, un leader non vede, Craxi non aveva più il consenso popolare, non aveva i voti, era inseguito dai giudici, non da una condanna definitiva. Berlusconi ha il consenso, i voti, il partito, è il primo partito tuttora nei sondaggi d'Italia, non è inseguito dai giudici, nel senso che è una condanna definitiva che deve scontare, quindi è una situazione completamente diversa. Diversa. Va bene, andiamo a sentire un attimo la pubblicità, rientriamo con Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano. 24 mattino. Eccoci, alle 8:35 minuti. Allora, qui crolla tutto, come titola il Giornale. Io ci ho messo il punto di domanda, per la verità, il Giornale no. Siamo con il direttore Alessandro Sallusti, siamo con il direttore anche del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro. Vorrei, come ascoltatori, Antonella ci ha chiamato dalla provincia di Fermo. Antonella, buongiorno. Sì, buongiorno. Che pensa lei? Volevo dire questo. Si parla tanto di questi problemi, insomma, che ci attanagliano, no? Dell'economia, del lavoro, no? Voglio dire, ma perché i problemi dei cittadini comuni, di tutti gli italiani, vengono sempre e comunque messi in secondo ordine? Cioè, voglio dire, Noi ne parliamo tutti i giorni dicendo che il governo non riesce a fare, stiamo denunciando. Dico a voi giornalisti, perché se posso ascolto comunque spessissimo. Sì. Radio 24, però ecco, nei ritagli di tempo, quindi magari una trasmissione al completo non riesco mai a seguirla. Però i benedetti politici, ma anche chi, diciamo, il contorno, chi sta accanto ai nostri politici, possibile che non riescano ad ampliare lo sguardo e toglierlo, insomma, dai problemi, diciamo, del singolo? No, dei no, ma probabilmente ci provano. Guardi, Antonella, ne parlano, le sente il Premier Letta, sì, la disoccupazione giovanile. Sì, però noi italiani, che però non riescono ad avere evidentemente la forza politica per prendere i problemi. Diciamo, noi siamo in una democrazia, il Parlamento ci rappresenta, e poi il Parlamento che fa? Che fa? Antonella, si deve calare le brache. Cioè, voglio dire, adesso è successo, ma basta, insomma, noi... Diciamo, dobbiamo capire, noi cittadini soprattutto dobbiamo capire, insomma, che ci deve stare, diciamo, un limite ad ogni cosa. No, ma è chiaro, il suo scoramento, guarda, è quello che pensano molte persone. Grazie Antonella, vorrei andare a Palermo da Victor. Buongiorno Victor. Buongiorno, buongiorno. Dica. Io ho una riflessione velocissima, soprattutto per il direttore Tallusti, un estremo difensore della posizione, diciamo, di Berlusconi. Sì, dica. La mia è una domanda semplice. Il rispetto dei poteri dello Stato sono previsti dalla Costituzione. Non riesco a comprendere quale sia gli elementi che fanno determinare che la magistratura abbia un accanimento nei confronti di Berlusconi. Non riesco a capirlo. Non riesce a capire. No, perché nel senso che Berlusconi è stato processato. Siamo in attesa di questa ultima e definitiva sentenza della Cassazione, ma tutto questo che c'entra con il proclamato accanimento. Colpe da parte della magistratura, perché si vuole mettere processare il capo del partito. Ma Victor, lei pensa di riassumere 20 anni di diatriba giudiziaria e politica tra chi dice che è una persecuzione giudiziaria e chi dice che non lo è. Prima che le risponda Sallusti, ovviamente, con la sua posizione, vorrei chiedere questo a Padellaro e anche a Sallusti. Padellaro, oggi Libero titola così: Napolitano fagli la grazia, cioè la richiesta esplicita è: dovesse arrivare una condanna definitiva, Giorgio Napolitano, in nome della pacificazione, conceda la grazia a Silvio Berlusconi, un provvedimento che solo il capo dello Stato può concedere. Che ne pensa Padellaro? Ma insomma, io credo che se Napolitano facesse la grazia a Berlusconi, non credo che potrebbe restare un minuto di più al Quirinale, insomma, ma non credo che sia nel novero delle possibilità. Penso anche che Berlusconi non abbia nessuna intenzione di chiedere la grazia, perché a parte i problemi legati alla detenzione, ai servizi sociali, e alla interdizione, c'è un problema che riguarda, nel caso di una condanna, riguarda proprio la figura politica, che sarebbe completamente squalificata. Volevo dire una cosa, se mi permette, rispetto all'accanimento. Parliamo soltanto della Cassazione, di questo provvedimento che Sallusti dice preso in fretta e furia. Allora, come Sallusti probabilmente sa, ogni fascicolo che arriva in Cassazione porta un'etichetta sulla copertina che dice la data della prescrizione. Questa prescrizione diventa, per i magistrati che devono esaminare i vari procedimenti, tassativa, nel senso che se tu perdi tempo o non avvii il procedimento in tempo, si prescrive. Sei passibile di procedimenti disciplinari. E la sezione feriale, quella a cui è stata affidata la causa Berlusconi, causa Mediaset, già in passato ha accelerato 147 procedimenti, quindi è un atto dovuto. Cioè, quando dice, come il presidente il primo presidente di Cassazione Santa Croce, che ha detto: abbiamo fatto quello che dovevamo fare, insomma, l'abbiamo considerato come un procedimento come tutti gli altri. Sallusti vuole replicare su questo e anche sulla questione l'accanimento giudiziario, che però ci porta velocemente. Non risulta, non c'è prova che ci fosse quella data sulla famosa copertina, anzi risulta che c'è una data ben diversa, che era quella di settembre, che secondo lui, almeno secondo la difesa, era la data corretta. Detto questo, se è vero che il magistrato ha dovuto fare questo, se no era passibile di procedimento disciplinare, mi chiedo quale procedimento disciplinare verrà applicato contro la giudichessa che ha emesso la sentenza in questione, la quale un anno e passa fa condannò a carcere uno stupratore acclarato e poi si è dimenticata di scrivere le motivazioni, cioè quello che Berlusconi ha fatto in 20 giorni non ha avuto il tempo. Voi lo raccontate oggi sul giornale a pagina 2. No, ma non è un dettaglio secondario, perché questo stupratore da qualche giorno è libero, perché se il giudice non scrive entro un anno le motivazioni, dico un anno le motivazioni, è libero. Il detenuto. No, ma infatti oggi voi l'avete. Questa giudichessa dovrebbe essere, seguendo il ragionamento di Pavellaro, questa giudichessa dovrebbe essere espulsa dalla magistratura. Io l'ho letto in rassegna stampa, l'avete raccontata a pagina 2, però perché la chiama, la chiama giudichessa come Berlusconi, Sallusti? Beh, è una giudica, una donna, non so, una donna, donna giudice. Per quanto riguarda l'accanimento. Beh, credo che sia un dato oggettivo che a tutti sfugge. Nessun uomo in un paese occidentale è stato processato 34 volte in 18 anni. Non ce n'è. Quindi 34 processi è un'anomalia tale che fa, come dire, sospettare in maniera fondata di un accanimento. Per quanto riguarda la signora, la prima signora che ha telefonato, non è che la politica non vuole occuparsi dei problemi della gente, è che non può occuparsi perché non ha l'agibilità di farlo, perché è come se i tifosi di una squadra di calcio se la prendono con la propria squadra che gioca male, quando è l'arbitro che ogni due minuti fischia in modo ingiusto, e quindi bisogna occuparsi dell'arbitro, in questo caso l'arbitro è la magistratura. Ma che succederà il 30? Io non voglio, meno male che io, Padellaro, io il 29 vado in ferie, vado fuori dall'Italia, poi mi farete sapere con l'iPad, scoprirò il 30 luglio se esiste ancora l'Italia, non lo so se esiste ancora il governo. Che succederà, Padellaro? Non lo sappiamo cosa succederà, sappiamo una cosa, che la pressione che si sta esercitando e verrà esercitata da qui al 30 giugno sui giudici della Cassazione, sarà una pressione spaventosa. Cioè, io non vorrei essere nei panni di quel povero presidente della sezione feriale, dei suoi colleghi, che dovrà decidere. Ai quali, grazie a ai riti sciamanici del PDL, sulle cui spalle c'è una responsabilità gigantesca, perché a questo punto viene detto loro che se dovessero confermare la condanna di Berlusconi ci sarebbe una catastrofe a catena, perché cadrebbe il governo, il paese finirebbe nel default, verremmo espulsi dall'Unione Europea. Immaginatevi questi poveri giudici come se la passano, io penso che alla fine, ecco, posso dire che, come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato, però io voglio pensar male, alla fine una qualche via d'uscita si troverà. Ah, magari anche un rinvio, chi lo sa. Io intanto, quando sono le 8:45, vi saluto e vi ringrazio. Alessandro Sallusti, direttore del giornale, Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano. Andiamo a sentire un minuto le informazioni sul traffico e poi voglio tenere un pochino di mistero. Ci sarà un personaggio politico, perché ancora personaggio politico, sebbene alle ultime elezioni non è stato rieletto, che magari attende questo momento con un spirito particolare, chissà. Glielo chiederemo tra pochissimo. Chi sarà? Teniamo il mistero. 8:45. Eccoci alle 8:46 minuti, gli ultimi 10 minuti siamo in compagnia di Antonio Di Pietro, che saluto, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ex leader dell'Italia dei Valori, ex parlamentare, che dire, ex magistrato, però Di Pietro, glielo dico... Ex leader dell'Italia dei Valori, ma sempre militante dei Valori, certo. Perché io credo ancora nell'Italia dei Valori e mi voglio impegnare ancora in politica. Allora, dica la verità, come sta vivendo questo momento? Quando ha saputo che la Cassazione ha fissato il 30 luglio e che quindi il 1 agosto o il 30 luglio stesso Berlusconi potrebbe avere una condanna definitiva a 4 anni di carcere, che ha pensato? Qual è stato il suo primo pensiero? Che cosa si inventerà ora per cercare di ribaltare anche quest'altro fatto, perché è da 20 anni che Berlusconi non è che è perseguitato la magistratura, è da 20 anni che costruisce leggi ad hoc, che accusa i magistrati di complotto, che allunga i tempi con i tanti azzeccacarbugli che gli stanno intorno. Anche questo processo, di cui tutti dicono che si sta facendo troppo presto, è da 10 anni che dura e si sta aspettando solo la prescrizione. Vorrei solo dire una cosa: anch'io sono stato processato e ho fatto denunce molte volte, ma una persona che sa di essere, che si sente innocente, una persona che ritiene ingiusta la condanna, dovrebbe essere solo felice che ci sta un giudice che può rivedere la condanna che ha aggiunto. Invece questo è stato condannato in primo grado, è stato condannato in secondo grado, fa lui il ricorso in Cassazione perché non gli sta bene, la Cassazione gli fissa l'udienza e lui dice no, non mi sta bene. Ma allora che vuoi? Vuoi sapere? Vuoi la prescrizione? Ma se permetti, visto che hai fatto il Presidente del Consiglio 2 o 3 volte, visto che sei il capo del partito, di un partito che sì, mantiene questo governo, visto che stai reggendo le sorti dell'Italia, permetti che vogliamo sapere se sei una brava persona o un delinquente. Ma dicono c'è stata un'accelerazione, cioè questa fretta di volere fissare tutto intorno. La brutalità è una minchiata, una cosa del genere, perché è un fatto normale che un giudice cerchi di fare il suo dovere prima che scatta la prescrizione. Se non siamo riusciti in questi 10 anni a farlo, non è perché la Cassazione o i giudici d'appello hanno perso tempo, è semplicemente perché per 10 anni hanno cercato di tirarla alla lunga per arrivare alla prescrizione. Sai che una delle ipotesi che circola, anche se prima il direttore Sallusti dice no, smentita, è che Berlusconi faccia in caso di condanna come Craxi, insomma, che vada all'estero. Lei se... Tenga presente che Craxi, se va a rivedere lei se lo ricorderà, tutti dicevano che era andato in esilio in Tunisia. Craxi era andato latitante in Tunisia, non in esilio, perché nessuno ce l'ha mandato. E è chiaro, Berlusconi, io l'ho sempre criticato da 20 anni a sta parte, come un classico imputato che ha scelto la terza via. Le due vie che conosciamo nei libri di scuola erano: uno, si affida alla magistratura e ne paga le conseguenze se ha commesso reati, sconta la pena. Due, fa il latitante. Berlusconi è semplicemente un cittadino che ne ha commesse di cotte e di crude e che si è inventato la terza via. Invece di andare a San Vittore è andato a Montecitorio per farsi la legge per non farsi processare. È una furbata, ne prendiamo atto, però io non mi preoccupo più dell'imputato Berlusconi, mi preoccupo oggi di questi cittadini che si sono berlusconizzati fino al punto di pensare che ci troviamo di fronte a una guerra fra bande. Sì. Questa è una guerra fra guardie e ladri, in cui i ladri pretendono di giudicare le guardie. Ma lei ha già deciso, cioè dice invece che andare a San Vittore è andato in Parlamento, cioè ha già deciso, ha già così emesso la condanna. No, io ho voluto riassumere in questa battuta che cosa? Che quando si è sotto processo, in uno stato di diritto ci si deve sottoporre al processo e farsi giudicare nel merito. Se un fatto non l'hai commesso, vai dal giudice e spieghi le tue ragioni. Io sono stato inquisito, facevo il ministro, 10 secondi dopo mi sono dimesso e sono corso dal mio giudice. Certo, io ero innocente, quindi facevo bene andare dal mio giudice. Mi devo chiedere invece Berlusconi perché... sa di essere colpevole. Ma allora perché? Perché si arrabbia dopo aver fatto ricorso in Cassazione? Perché dice che c'è accanimento giudiziario. Perché non dimentichiamoci una cosa, che la Cassazione può benissimo annullare la sentenza e lui viene assolto. Ah beh, questo sì. Cioè, bisogna rifare l'appello, Va in prescrizione. Può annullare con rinvio e senza rinvio. Quindi la può annullare semplicemente, lo può annullare rinviando. Ma se invece, mi scusi, se viene la condanna definitiva, secondo lei Berlusconi dovrebbe andare in carcere? Dopo 70 anni non può andare in carcere perché lo prevede la legge, deve essere trattato nel bene, nel male, ma anche nel bene come tutti gli altri. Quindi agli arresti domiciliari. Seguirà quel che sono le norme per tutti, come il signor Brambilla, anche il signor Berlusconi, il signor Di Pietro, il signor Giovanni, il signor Francesco. Cos'è questa idea? La cosa, ripeto, io non mi preoccupo tanto di lui. Lui fa l'imputato, è chiaro che dice tutto quello che gli pare piace e la legge glielo permette, ma si rende conto che il Parlamento si ferma per protesta contro la decisione della Cassazione che decide di fare un giudizio. Questo certo, ne abbiamo parlato. Mi lamento del fatto, non del PDL, mi lamento del fatto che tutti i parlamentari, PD compreso, gli vanno pure appresso. Quindi secondo lei è più colpa, infatti è anticipato la domanda, è più colpa del PDL che ha fatto questa richiesta o del PD che l'ha secondata? Guarda, io ho sempre... disprezzato Erode, ma mi ha fatto sempre schifo Ponzio Pilato. perché Ponzio Pilato è quello che si gira dall'altra parte, che fa finta di non vedere, che passa sopra, che si gira dall'altra parte. Allora io chiedo in questo momento, il PD, che ci sta a fare al governo con una persona che non rispetta neanche lo Stato di diritto? E chiedo di più, faccio una domanda da cittadino al Presidente della Repubblica. Signor Presidente della Repubblica, ma dove stai? Ma è possibile che in un momento così delicato, in un attacco così diretto allo Stato di diritto non ti fai sentire? Ma che dovrebbe non dire? Stare zitto, cioè, di Ponzio Pilato ne abbiamo vinto anche troppo. Che dovrebbe dire Napolitano? Dovrebbe dire semplicemente al Parlamento di fare il suo dovere. Dovrebbe difendere l'azione dei giudici, perché lui è il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, e dovrebbe ribadire in modo forte e chiaro che i giudici che fissano un'udienza su richiesta dell'imputato, perché ricordate che siamo in Cassazione, perché il ricorso l'ha fatto Berlusconi, non è che l'ha fatto la Procura, l'ha fatto lui il ricorso, e su richiesta dell'imputato, e siamo in Cassazione, si sta andando in prescrizione quel reato, e quindi lui ha il dovere di difendere, non di stare zitto. E non, il silenzio, il silenzio l'ha fatto Ponzio Pilato, ma c'è qualcuno che è morto. Quindi Ponzio Pilato è più napolitano o il PD, secondo lei? Un po' tutte e due. Guarda, sicuramente in questo momento il silenzio pilatesco di Napolitano a me come cittadino fa amarezza totale. Sicuramente il silenzio complice del PD è un silenzio che deve essere denunciato all'opinione pubblica italiana. Ma secondo... D'altronde, si ricordi che se io non sono in Parlamento è perché non sono in coalizione, e non sono in coalizione, non sono stato in coalizione perché il PD non ha voluto l'Italia dei Valori, semplicemente perché l'Italia dei Valori queste cose le diceva quando stava in Parlamento e quando cercava di aprire gli occhi agli italiani, che questo è il problema. A me preoccupano tutti questi italiani che si sono berlusconizzati. Cioè, voglio dire, ma non vi rendete conto che state votando e state mandando in Parlamento una persona che ci va per i cacchi suoi e non per i cacchi vostri? Ma secondo lei il governo dura? Ma il governo io mi auguro che duri il meno possibile. Però questo per il bene dell'Italia è un disastro. Cioè, dice, noi, io sono fuori dal Parlamento, quindi vogliamo rientrare in Parlamento. Però, Guarda, per il bene dell'Italia ci vuole un governo e un Parlamento che vengono eletti dagli italiani. In questo momento c'è un governo che fa parte di un inciucio tra due forze politiche che durante le elezioni hanno chiesto il voto uno in alternativa dell'altro e poi si sono messi insieme. Quindi voglio dire, è un tradimento del voto elettorale, del mandato parlamentare e soprattutto della democrazia rappresentativa. Vabbè, io Di Pietro devo chiudere, non ho capito quale sarà la sua sensazione di fronte a un'eventuale condanna di Berlusconi il 1 agosto. Deve andare a casa il più presto possibile e lasciare che il paese possa eleggere delle persone liberamente, non sotto il ricatto dei suoi di ciò che lui potrebbe combinare se viene, cioè, non lo vedrà come anche una sorta di coronamento di una parte della sua carriera. Cioè, lei l'ha inseguito, diciamo, come magistrato, veramente è lui che ha inseguito me. Non so se lo sa, ma Berlusconi ha ordinato e costruito e fatto costruire il dossier contro di me. Poi io ho avuto molte ragioni. Prima di me c'era lì il signor Sallusti, doveva chiedere a lui quante cause abbiamo dovuto fare col giornale proprio perché è stato l'organo di rappresentanza del dossieraggio dei miei confronti. Altre cause. Intanto la ringrazio, buona giornata con Antonio Di Pietro. Ci fermiamo, militante dell'Italia dei Valori, ex segretario dell'Italia dei Valori. Ci fermiamo qui, potete riascoltare tutto su radio24.it. Noi siamo ancora domani pronti a intervenire. Saluto Alessandro Longoni, saluto Laura Faggini in redazione, Paolo Corleoni oggi in regia, e a domani alle 6:30. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 24 Mattino.